Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama APA, acronimo che sta per Abbattimento Polveri Atmosferiche. È una tecnologia messa a punto dalla società di innovazione tecnologica applicata ISTEC per abbattere la quantità di polveri sottili nell'aria che respiriamo. Ce ne parla l'amministratore delegato di ISTEC, Giuseppe Spanto, che Chiara Albicocco ha intervistato per noi. Sentiamo. APA è una tecnologia che opera al suolo praticamente, dove la gente vive, lavora e respira ovviamente. Funziona riproducendo il ciclo naturale della pioggia. In pratica sequestra l'aria nella zona circostante all'installazione della piattaforma, la porta all'interno della macchina dove viene riprodotto, come dicevo, il ciclo naturale della pioggia. Praticamente piove e le polveri sottili, gli inquinanti che sono dannosi, nocivi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, vengono abbattuti a umido, vengono abbattuti ad acqua. Quindi precipitano? Acqua, quindi elimina tutti gli inquinanti che ci sono nel raggio d'azione dell'impianto. Ecco, avete fatto, se non erro, 7 anni di ricerca e lo avete sperimentato anche negli ultimi 2 anni in alcune città importanti come Milano, Roma e L'Aquila. Ecco, e poi l'avete applicato anche in qualche stabilimento industriale. Ci dice un po' quali sono stati i risultati? Corretto, chiaramente l'attività di sperimentazione in laboratorio era già partito prima della costituzione della società, siamo a circa 3 anni di sperimentazione sul campo e poi come ambiti industriali, stabilimenti di lavorazione ceramica, stabilimenti di lavorazione vetroresina, meccanica, biodigestori, trattamento rifiuti. Ma dove lo installate? Cioè è pensabile metterlo ad esempio su ogni marciapiede ogni 50 metri o no? Dove è efficace posizionarlo? Allora, per quanto riguarda le aree urbane outdoor in senso generale, quindi per strada per intenderci, il progetto, la soluzione tecnologica sono pensati per integrarsi in programmi multidisciplinari. Per noi la Smart City è una città umana, è una città che gode di progetti multidisciplinari dove oltre all'impianto di purificazione dell'aria ci sono soluzioni di interattività, soluzioni multimediali, di videocontrollo, di potenziamento delle reti di comunicazione, di videosorveglianza, eccetera, eccetera. Ma quindi ho capito bene, ad esempio all'aperto potrebbe essere associato ad esempio a una pensilina dell'autobus piuttosto che ad un totem informativo che serve per altre cose oppure ad un lampione intelligente come quelli di cui parliamo spesso qui a Smart City. Ecco, una cosa così potrebbe essere integrato in questi altri arredi urbani che siamo abituati a vedere? Esattamente, proprio perché la logica, dicevo, è quella di integrarsi per gli spazi aperti in progetti multidisciplinari. Gli ambiti di tipo urbano poi, che sono da purificare, da bonificare dal punto di vista dell'inquinamento, sono anche tutti i luoghi indoor. Pensiamo alle stazioni ferroviarie, alle stazioni della metropolitana, ai centri delle gallerie commerciali. I parcheggi sotterranei, ecco. Dove appunto la piattaforma può essere installata anche fino a se stessa, diciamo, al di là di tutte le altre componenti tecnologiche, con la strategia di uso sua, quindi per dire in un parcheggio piuttosto che in un centro commerciale, a seconda di dove si trovano, si fa lo studio, si verifica quali sono le caratterizzazioni di inquinamento e si installano tante macchine per quanto sono necessarie. E senta, i costi, perché voi insomma siete abituati a dialogare anche con le pubbliche amministrazioni che di questi tempi insomma non se la passano benissimo. Questa a nostro avviso è una leggenda per molti casi sicuramente, perché ci sono progetti finanziati dall'Unione Europea e comunque progetti di tutti i tipi che riguardano le ristrutturazioni, le rigenerazioni urbane. In realtà i costi sono decisamente sostenibili e sul listino ufficiale si parla di servizi annui che praticamente come costi sono coperti dalla raccolta pubblicitaria in molti casi nei modelli di simulazione che abbiamo fatto. Cioè in alcuni casi si potrebbe ripagare con il servizio integrato? Esatto, quanti oggetti d'arredo urbano, pensiamo a una pensilina o anche ai pannelli informativi che ci sono nelle stazioni, c'è pubblicità che ogni tanto gira, qualche volta ci sono schermi interattivi, quella pubblicità avrà un suo costo di raccolta pubblicitaria. Potrebbe essere abbinato. Nelle simulazioni che abbiamo fatto noi, posizionando delle piattaforme che hanno quel servizio in più, che tra l'altro è un servizio sociale, va bene. In questo senso i costi possono essere tranquillamente coperti. È sostenibile, va bene, grazie mille davvero, buona fortuna, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera e buone cose. Beh, insomma, forse ripulire a tappeto l'aria delle città dagli inquinanti è davvero pretendere un po' troppo, ma certo, come avete capito, ci sono dei luoghi particolarmente sensibili dove polveri e veleni vari sono molto concentrati, magari proprio ad altezza naso. Intervenire lì può fare la differenza. E oggi c'è uno strumento in più. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.